Manca poco, pochissimo, alla nuova edizione di Ferrara Sotto le Stelle, il festival che si tiene nella città estense e che quest'anno ha cambiato format, un boutique festival e anche location, perché si svolgerà al Parco Massari. Ma le novità non sono finite, perché insomma purtroppo la pandemia ogni tanto mette i bastoni fra le ruote e gli Shame, che erano attesi per la data del 1° luglio insieme ai Massimo Volume, non potranno arrivare in Italia. Ma l'organizzazione ha reagito con una gran bella mossa, va detto, cioè sostituendo il gruppo con i Soviet Soviet e soprattutto rendendo gratuita la data, quindi chi ha già comprato il biglietto può essere rimborsato. In ogni caso, a causa delle restrizioni anti-Covid, è necessario prenotarsi su Eventbrite, si trova appunto l'evento a cui prenotarsi. Noi, per parlare allora di quel concerto, siamo al telefono con Vittoria Burattini dei Massimo Volume, che saluto. Ciao Vittoria, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, buonasera. Allora, tornate live a Ferrara Sotto le Stelle e ho letto, e dimmi se sbaglio, che è l'unico concerto estivo che farete. Sì, è l'unico concerto, anche perché il nostro disco ormai è di 2 anni fa, quindi in un certo senso è il concerto che più o meno chiude questa parabola e poi insomma vediamo se ci saranno altre cose, se scriveremo altre cose. L'intenzione è di farlo presto, però sì, ecco, ci siamo così, abbiamo deciso di fare quest'unica data un po' extra tour ufficiale, diciamo. Esatto, avete fatto un po' insomma dopo questo periodo assurdo che abbiamo vissuto tutte e tutti, quindi serviva comunque una conclusione. Sì, in un certo senso sì, anche perché comunque è tantissimo che non suoniamo, ci abbiamo voglia e ci piacciono anche le sfide, pur essendo ormai dei un po' vecchiarelli, però insomma volevamo concludere anche un po' simbolicamente il cerchio e direi che la cornice tra l'altro è quella adatta, perché è comunque molto prestigioso suonare lì sempre, quindi. È la prima volta che andate a Ferrara Sotto le Stelle? No, in realtà siamo andati, adesso non mi ricordo l'anno, però era la sera del concerto con Fausto, abbiamo suonato insieme quella volta là, però ormai saranno 10 anni fa. Però sì, è stato anche lì molto bello, molto divertente suonare. Certo, cosa proporrete al pubblico di Ferrara Sotto le Stelle? Allora, naturalmente daremo più spazio all'ultimo disco, come da tradizione, di solito facciamo così, insomma. E poi sarà un concerto che punterà un po' più alle atmosfere e faremo un po' cercheremo di suonare i pezzi che riteniamo, insomma, migliori della nostra cosa. Sarà un concerto però di un'ora, non sarà un concerto lunghissimo, abbiamo dei limiti di tempo, ecco. Volevo chiederti, approfittando appunto dell'intervista che sto facendo a te, tu hai recentemente partecipato anche a un altro progetto che è stato quello di Donna Circo, questa ripubblicazione del primo album femminista in Italia. Com'è stato lavorare a quel progetto? Beh, allora, la ripubblicazione dell'originale è parte del progetto, in realtà noi l'abbiamo riscritto completamente il disco, chiaramente rimanendo più o meno con gli arrangiamenti originali e con i testi originali, però ci siamo più che altro cimentate nella riscrittura e nella, insomma, in una riedizione che a noi perlomeno sembrava un po' più nuova, un po' più moderna come arrangiamenti, suoni, così. Quindi bello, perché comunque lavorare con 12 artiste più una band, più tutta una struttura anche organizzativa al femminile è comunque un'esperienza molto interessante e dimostra, tra l'altro, secondo me, nonostante i problemi di disparità di genere, inequità rimangano naturalmente alti e non risolti, però adesso almeno possiamo contare su una squadra intera di donne che suona, che organizza e quindi credo che questo è un po' il segno di un cambiamento rispetto agli anni 70, dove credo di donne ce ne fossero meno, proprio numericamente. Tra l'altro tu non ti sei cimentata solo la batteria, ma hai anche cantato in un brano, no? Sì, ma siete informatissimi. Abbiamo intervistato Suits, quindi ah, ho capito. Ci ha detto tutto. Sì, dai, alla fine è una cosa che ho sempre voluto fare, mi è sempre piaciuto, in realtà nella vita io volevo fare quello, poi mi sono ritrovata batterista con uno che neanche canta, tra l'altro, una roba incredibile. E quindi dai, adesso, a parte gli scherzi, c'avevo voglia di fare anche questa esperienza qua, perché è stato sempre il mio sogno e quindi l'ho coronato. Tornando ai Massimo Volume, lo hai accennato prima, ma te lo chiedo, insomma, avete in mente di tornare a scrivere qualcosa? Dobbiamo aspettarci in un futuro non ben precisato un nuovo lavoro? Ecco, non ben precisato è una buona espressione, nel senso che abbiamo l'idea, sappiamo che presto ci rimetteremo riusciremo a scrivere, però la vita diventa sempre più complicata e quindi non sappiamo bene quando. Noi sappiamo che lo rifaremo e che la voglia c'è, abbiamo una sala, è tutto pronto, poi vedremo quando ci rimetteremo, perché poi bisogna insomma fare spazio e quindi speriamo che succeda presto. Allora, un passo alla volta, intanto gli ascoltatori e le ascoltatrici possono venire a Ferrara il 1° luglio a Ferrara sotto le stelle al Parco Massari per appunto ascoltarvi. Grazie mille Vittoria e insomma merda come si dice nel mondo dello spettacolo. Grazie mille e a presto e speriamo di vederci a Ferrara tutti insieme.